Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Non sentite anche voi quel leggerissimo sconforto quando sentite sta sigla? E quando penso che in realtà poi prima o poi la dovremo cambiare, no? In qualche maniera aggiornare, diciamo così, allo stesso tempo so che mi mancherà, perché è veramente la fotografia di un periodo, il nostro, questo, che però sembra già lontano. E quindi vi do un compito subito, prima di darvi il buongiorno, prima di dirvi il benvenuto, ma poi benvenuto che, buongiorno che, cazzo, insomma, come sempre. Il primo compito che vi do, sia per voi che siete in diretta, quindi per ora vedo Walter e Michela, che per coloro che ascolteranno poi ovviamente questo episodio in podcast, è quello di segnalarmi degli stralci audio che possano essere buoni per essere sostituiti a questi, in questa sigla, in modo insomma da riaggiornare e fare una nuova fotografia di quello che è la situazione, no? In questo momento. E così che io possa poi ovviamente costruire una nuova sigla che ci accompagni per un po' di tempo. Gliela famo a fa che? Scusa, non mi sentite? Non sono in onda? Ditemi, prova. Scusate, vado a controllare. A me qui mi sembra che siamo in onda, però non so. Non so, mi dite per cortesia? Un momento, Vabbè, ok. È momenti di panico che ovviamente ci porteremo. D'altronde ci può anche sta uno la mattina rincoglionito e quindi potrebbe benissimo essere. Quindi dicevo, facciamo questo primo esperimento, appunto. Cioè, nel senso, scrivetemi in privato per mail a runtimeradio@gmail.com o dove vi viene comodo, insomma, dove volete voi. Scrivetemi suggerendomi tramite magari dei link YouTube dei pezzi che possono essere adeguati ovviamente alla nuova sigla. E soprattutto tenete in considerazione che deve essere veramente un micro pezzo, quindi proprio una frase estratta. Prendi la frase che sta al minuto, insomma, così che io possa ricostruire praticamente una nuova fotografia, appunto, come dicevo, e lo sto ripetendo perché non ho capito se mi stavano sentendo o no. E un'altra cosa invece, prima di ascoltare il brano di apertura, diciamo, di questo episodio, dato che oggi parleremo di sports, mi piacerebbe sapere da voi, ma anche nei commenti successivi alla diretta, quindi sempre anche per chi ci ascolta in podcast, qual è, ovviamente escludendo il calcio, lo sport che vi piace di più. Il mio nome è Tremotto Bengo. Tira nella porta che vuole e nessuno lo sgrida. Ed ora mi rendo conto di quello che provò l'amico Niccolò Carosio nel 1934 e 1938 quando disse dal microfono dell'Eiar quello che questa sera modestamente posso ripetere io. L'Italia è campione del mondo, campione del mondo. Il titolo più grande che possa essere conquistato nello sport più popolare del mondo. Una vittoria limpida, campione del mondo. Campione del mondo. Sono profondamente commosso, siamo due fumatori di pipa. Campione gli ho detto mondo. Che bruci nel fornello campione della pipa, mondo. Il fornello è questo, campione voi non siete, non conoscete, ma questo mondo. È il fornello. Deve campione bruciare come mondo. Faccio io le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà, campione se del io le brucio qui le mie amarezze campione perché ho 400 pipa. Campione del mondo. Che se no è un po' arrivato, è tolto dalla... Campione del mondo. Campione del mondo. Campione del mondo, eccomi, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, Tardelli, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, esultiamo con Pertini. Alla fine questa canzone, diciamo, meglio le storie tese, ovviamente, giocatore mondiale. Fa un purpurri, la solita ironia, anzi, grande perculismo, insomma, a livello generale, però poi alla fine l'omaggio a quei mondiali dell'82 c'è, è abbastanza evidente alla fine, e sono dei mondiali, secondo me, che per quelli della mia generazione sono rimasti più impressi, proprio perché, boh, perché forse era tanto che non succedeva, boh, perché era un'altra epoca... Non lo so, però è stata un'esperienza vissuta in diretta, le famiglie tutti aggregati a vedere le partite, poi si festeggiava, insomma, vabbè. E poi la voce di Nando Martellini, che insomma è assolutamente inconfondibile, grande, grande personaggio delle telecronache come si facevano un tempo. Dicevo, dello sport, prima di parlare dello sport, nel senso, insomma, magari il discorso che vorrei fare, parto da come funzionava lo sport quando ero ragazzino io, perché mi ricordo che sia alle elementari che alle medie, diciamo così, si tendeva a dire che l'Italia era un paese che non aveva un grande rapporto con lo sport in senso più strettamente pratico e educativo, cioè nel senso che comunque lo sport in Italia non è mai stato considerato tanto quanto magari come negli sport, come nei paesi britannici ad esempio, no? Dove lo sport è parte integrante del percorso pedagogico ovviamente dei ragazzi. Le scuole danno una importanza particolare allo sport, e lo sport viene vissuto comunque come parte integrante della vita quotidiana anche dei ragazzi. Poi chiaramente questa cosa riceve uno sviluppo oppure non riceve uno sviluppo, fino ad arrivare ovviamente magari come succede negli Stati Uniti, dove ovviamente c'è questa mentalità, questa filosofia proprio tipica, no, degli Stati Uniti, che è quella dell'iperspecializzazione, no, dove lo sport non soltanto è parte integrante della vita degli studenti in generale, ma diventa anche un elemento di distinzione, cioè nel senso che sappiamo che per le borse di studio, per i college e quindi ovviamente per l'agevolazione dei ragazzi verso l'evoluzione scolastica, lo sport è un fattore determinante a volte, quando ovviamente magari non c'è un'eccellenza da un altro punto di vista. E quindi questi college, che poi sarebbero comparabili alle nostre università, che fanno? Costruiscono una iperspecializzazione, se non su una materia tecnica, scientifica o umanistica, su un aspetto sportivo, perché la professionalizzazione dello sport, quindi la visione dello sport come qualcosa di costruttivo e da costruire, inizia proprio dal basso, inizia proprio dalle università, no? Dove ci sono le leghe nazionali, sia di basket che di football che di tanti altri sport, che alla fine sono l'anticamera del professionismo, se non addirittura proprio lo step immediatamente precedente, tant'è che molti scout vanno cercando direttamente appunto nelle scuole universitarie i vari elementi da tenere in considerazione o addirittura da mettere già direttamente sotto contratto o precontratto. Ecco, quindi diciamo c'è queste diverse sfumature che accompagnano l'Italia verso il resto del mondo, no? Ma questo era una cosa che era tipica da noi. Noi quando ero ragazzo io a scuola c'era l'ora di ginnastica. Credo c'erano 2 ore di ginnastica a settimana, se non ricordo male, adesso potrei dire una cosa così. Ma in generale l'ora di ginnastica non veniva mai considerata. Il professore di ginnastica non so neanche se partecipava agli scrutini per sapere se tu potevi essere più o meno considerato promovibile o no, ma comunque la scuola nell'insieme, con questo approccio tipicamente intellettualoide che c'è sempre stato nel nostro paese, considerava appunto la ginnastica, lo sport nell'insieme, come un fattore diciamo poco determinante, poco importante e sicuramente di secondo piano. Questo chiaramente generava tutta una serie di problematiche, compreso il fatto che non si istruiva, non si addestrava il ragazzo allo sport, alla competizione e anche a tutti quelli che erano i valori più strettamente educativi. Diciamo, io l'unico sport veramente competitivo che ho fatto alle medie era la pallavolo, che poi tra l'altro a gradi, perché noi facevamo praticamente giocavamo a palla rilanciata che era questa versione della pallavolo con le stesse regole, solo che la palla invece di essere mandata subito di là veniva bloccata. Questo aveva un senso da un certo punto di vista e forse è stato il momento in cui comunque un minimo di impegno nei confronti dello sport si metteva, perché in questo modo, quindi col discorso del bloccare la palla, passarla e poi andare a schiacciare, andare a far punto, permetteva anche ai ragazzi meno dotati da un certo punto di vista di poter partecipare all'interno di quello che era il contesto gioco, diciamo così, no? E invece alla fine e c'erano i tornei anche all'interno della scuola. Io mi ricordo che noi vincemmo praticamente il torneo non grazie a me chiaramente. Non grazie a me, perché io ero appassionato di tutt'altri sport. Poi alla fine devo dire ho dato anch'io il mio contributo, perché mi ricordo, e questo mi insegnò quanto poi alla fine avere un allenatore, diciamo una persona che ti spinge, ti suggerisce a fare determinate cose, ti può portare anche a crescere, ad evolvere da un certo punto di vista, quello che ti insegna a fare certe cose, no? Io mi ricordo che c'era questo insegnante, dato che a palla rilanciata poi ci si passava la palla 3 volte nella squadra, così semplicemente per dare un senso simulativo degli schemi di pallavolo, ma in realtà come ho detto di pallavolo non c'era niente. Poi chi aveva la palla per ultimo, che doveva andare a fare il punto o a tirare dall'altra parte, prendeva e se riusciva a saltare abbastanza in alto schiacciava, e quindi gli altri facevano muro, oppure insomma faceva punto a pallonetto, come cazzo gli veniva. E c'era il mio insegnante, mi diceva: tu vai tutto da una parte e schiaccia tutto dall'altra, cioè nel senso fai questa cosa del tiro in diagonale, che vedi che disorienterà ovviamente gli avversari. E devo dire che questa cosa poi alla fine mi divertiva, perché io facevo punto, tutti esultavano, e quindi insomma. Però in generale questo rapporto con lo sport, appunto, come ho detto, non c'è mai stato un grande sport, tant'è che quando c'erano gli eventi sportivi internazionali si faceva sempre questo grande raffronto, no? Cioè sul fatto che comunque da noi c'erano delle eccellenze che erano pure casualità, cioè nel senso sbucavano fuori magari dalla singola passione o dal fatto che magari tu vivevi in un certo tipo di territorio dove si praticava quel tipo di attività, e quindi capitava che ogni tanto uscivano fuori dei campioni particolari su determinati sport, ma senza mai creare un movimento, no? Che poi è quello che fa la differenza, no? Il movimento sportivo, la costruzione di una cultura e di una scuola specifica di quel tipo di sport lì. E infatti noi abbiamo avuto, vabbè, al di là dello sci ad esempio, no? Che abbiamo avuto dei grandi campioni, però affiammate, no? Perché sì, la scuola di sci noi ce l'abbiamo, c'è una tradizione e tutto quanto, però voi ricordate, c'era Alberto Tomba, no? Alberto Tomba, poi per anni non c'è stato più niente, no? Quindi non c'è una continuità, perché non c'è un movimento, non c'è. E questo, e se c'era dello sport che veniva considerato comunque sport dilettantistico, e quindi anche qui la profonda difficoltà nella mancanza di cultura dello sport, c'era anche grazie, che ne so, alle forze dell'ordine, ai corpi militari, no? Dove comunque un atleta viveva determinati privilegi all'interno di quelle che erano le sue mansioni specifiche, per poter sviluppare ovviamente la sua capacità dal punto di vista sportivo e renderlo poi tra virgolette competitivo. Altrimenti chi faceva una vita normale, quindi lavorava o doveva andare a scuola o roba del genere, aveva delle oggettive difficoltà nel fare lo sport, perché fare lo sport a determinati livelli significava un impegno spesso costante. Io conoscevo un mio amico che giocava a basket, lui finito a scuola, lui veniva a scuola col borzone perché lui tutti i giorni si allenava, ed era a buoni livelli, cioè, quindi ovviamente doveva sacrificare il tempo degli allenamenti col tempo dello studio, non poteva fare entrambe le cose. E quindi una delle due cose doveva essere sacrificata, probabilmente all'inizio lo studio e poi sicuramente alla fine lo sport, perché chiaramente poi lui doveva raggiungere determinati obiettivi, che erano quelli ovviamente della licenza scolastica, per liberarsi da questa cosa, e questo chiaramente. E quindi non c'è stata mai nessun tipo di agevolazione da questo punto di vista, no? E questo alla fine era una cosa che ci faceva sempre. Emergeva sempre questo tipo di discorso quando noi vedevamo le Olimpiadi e vedevamo tutti gli altri paesi che vincevano tante medaglie, e l'Italia ne vinceva relativamente, se non in determinati campi dove magari per tradizione era più o meno, insomma, avvezza a vincere, insomma, diciamo così. E a volte, ad esempio, noi nell'atletica per grandi blocchi di annualità, insomma, non abbiamo mai vinto niente. Questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. E invece poi dopo uscivano fuori appunto queste eccellenze che erano dovute da un fattore di caso, da un fattore di specificità genetica, magari che quella persona era talmente predisposta a fare quella cosa. Cioè, noi per esempio ci ricordiamo Sara Simeoni, il salto in alto, no? Cioè, quante altre persone hanno vinto nella sua disciplina in Italia, no? Cioè, nel senso, è una cosa da considerare questo, no? Cioè, che dite? E niente, questo è un po' il preambolo di un discorso che poi facciamo. Thank you. Questa è Rambutan con Start. Start perché insomma c'ha a che fare con lo sport in qualche maniera. Walter ci dice che lui non aveva la palestra a scuola e quindi dovevano fare le ore di educazione fisica, si chiamava così, le due ore, che mi conferma che infatti erano due ore, fuori dall'istituto, e quindi di conseguenza per ottimizzare la questione le facevano tutte e due nello stesso giorno, poi, fondamentalmente, quindi facevano due ore di educazione fisica così senza spezzare probabilmente, e questo rendeva la cosa abbastanza inutile, ma ti assicuro che era inutile anche quando in determinate scuole, anche quando le cose si facevano regolarmente con la palestra, anche perché spesso i professori di educazione fisica, ti ho detto, noi c'eravamo un fascistone che probabilmente non aveva trovato posto nel mondo dello sport e quindi alla fine era finito là. E, però tornando al, perché poi Walter giustamente mi fa notare il fatto che io parlo al passato, ma in realtà è ancora così. Sì, ma secondo me ci sono delle differenze sostanziali che adesso andiamo a vedere, perché quando eravamo ragazzini ad esempio c'erano alcuni progetti di incentivazione, so se ricordate i giochi della gioventù, che erano dei giochi competitivi tra le scuole, che per le scuole erano una rottura dei coglioni perché gli portava via tempo, organizzazione, ore di studio, i ragazzi, no, perché poi che fai, se divertono i ragazzi? No, no, devono studiare. Leopardi, che come giustamente ci dice in maniera molto più educata e sostanzialmente più evoluta Simona Ortolani, Leopardi è una rottura dei coglioni, capito? Quindi, però no, noi dovevamo stare lì a studiare Leopardi, perché se no poi facevamo sport, magari abbiamo freddo, che ne sai, ma che scherzi, dai, ma lasciamo perdere, no? E quindi diciamo che questa cosa ha sempre amplificato, diciamo, questo tipo di situazione. E qual era la possibilità, no, di fare sport in generale? C'erano probabilmente, quando ero ragazzino, c'era il karate, c'erano, diciamo, l'atletica. Se non avevi qualcuno che era portato, che aveva una predisposizione culturale o un'abitudine anche culturale, diciamo che probabilmente i ragazzi manco la conoscevano, l'atletica in generale, no? Quindi l'atletica leggera e anche, che ne so, il fondo, il mezzo fondo, tutte quelle discipline olimpiche, tu magari vedevi in televisione, dicevi ammazza e palle questi che girano intorno al cerchio, no? Anzi all'ovale. Però invece l'atletica a me mi ha sempre affascinato. Per un periodo di tempo mi allenavo all'acqua cedosa e facevo i 5.000 metri, e perché il mezzo fondo a me è sempre piaciuto, devo dire che ero anche abbastanza portato, diciamo, da un certo punto di vista, però il mio sport da ragazzino erano le bocce. Ecco perché poi ieri parlavamo del curling, no? Cioè le bocce, io ho vinto anche un torneo di bocce, voi direte, ma come può essere possibile? Nessuno se l'è mai spiegato, ma questo è un dato di fatto. Dovrei avere anche delle testimonianze visive da qualche parte. E quindi qual era, insomma, la possibilità? Il calcio, il pallone, no? Se andava, portavi il ragazzino, è andato a fa calcio, che non andava a fa sport, era calcio, il calcio, raga. Cioè in Italia, per la nostra cultura, per la nostra mentalità, c'era lo sport, che era, vabbè, così, una perdita di tempo, e poi c'era il calcio, che era il riflesso dei sogni di ogni italiano medio e soprattutto di ogni genitore che rifletteva nel figlio le proprie speranze, visto e considerato che lui era. E poi ricordiamoci una cosa, che noi in Italia siamo tutti buoni a giocare a pallone e siamo tutti buoni a parlare di pallone. Questa è una cosa, a Roma in particolare, questa cosa, erano tutti intenditori di calcio. Io quando ero ragazzino mi stavano tutti sui coglioni, proprio perché lo sapevano loro lo sapevano. L'altri vincevano, ma loro lo sapevano meglio, no? Ma questo Roma e Lazio non è una questione di appartenenza, come posso dire, di uno piuttosto che dell'altro. E quindi i ragazzini venivano portati a calcio, dove, essendo comunque un mondo correlato, diciamo così, di tutta una serie di avvoltoiume, insomma, anche sì, insomma, da quando erano ragazzini. Era un bel mondo di merda. Noi abbiamo sperimentato quando Matteo aveva 7-8 anni e c'avevano un allenatore qui alla scuola di Monterotondo, un pezzo di merda. Cioè, proprio per farvi capire, lui si stava provando a fare una squadra tra i migliori della sua squadra di nascosto, fino a che a noi ci è capitato di vedere appeso da una parte così casualmente sulla porta dello spogliatoio i convocati per un torneo dove non c'era Matteo, il che poi di per sé il fatto che non c'era Matteo ci poteva anche stare, perché Matteo del gioco a pallone poi fondamentalmente non gliene fregava un cazzo, cioè non è che ci si è mai impegnato più da tanto, insomma, diciamo stava lì e si metteva le mani sui fianchi cose che noi diciamo adatto all'Ippica, infatti poi si è andato all'Ippica e lì insomma i risultati sono stati diversi, perché si vede che gli piaceva di più probabilmente, ma anche il modo in cui i ragazzini tendono a diventare competitivi fra di loro era una cosa abbastanza particolare. E ricorderemo tutti, questo, quelli che hanno un po' più o meno la mia età, ricorderemo tutti le partite dei campionati provinciali, locali, soprattutto qui da noi nel Lazio, dove c'erano le reti private che andavano lì con la telecamera da 3.000 lire a riprendere queste partite, e dove ovviamente il tizio faceva la telecronaca col microfono dalla telecamera, quindi manca dico col microfono, e quindi si sentiva poco lui e tanto tutto quello che gli stava intorno, che era tipo spessagli le gambe a quel ragazzino di merda, spaccagli il culo, rompilo, fallo a pezzi, so delle pippe, guarda quello che pippa, quello è uno spastico, e così. E questo è il sunto del nostro rapporto con lo sport, con la sportività, l'educazione che per decenni noi abbiamo dato nei confronti dei ragazzi e dello sport, no? E quindi chiaramente questa visione anche violenta e barra elitaria, no? Dei confronti di una cosa che solo se sei buono, no? Perché se non sei buono nessuno ti insegna, capisci? Cioè tu devi essere già buono del tuo, capito? Non c'è il... Poi c'erano anche delle eccezioni, no? Cioè nel senso comunque di quello che si metteva lì e cercava di insegnare sia i movimenti che anche il tocco con la palla, quindi tutta la parte tecnica. Ma comunque il calcio ha sempre schiacciato in generale lo sport, sin dai ragazzini, ma lo ha schiacciato nel senso anche più negativo, perché poi in Italia alla fine lo sport era il pallone. Ok, quindi succedeva che magari noi per decenni non abbiamo vinto un cazzo nel calcio. Vabbè, lasciamo perdere poi il discorso dei club, che era un po' un discorso particolare, però magari io parlo a livello nazionale. E poi magari in altri sport magari vincevi la medaglia di qua, la medaglia di là. Per esempio noi ci abbiamo avuto, e questo forse è l'unico movimento che veramente è sempre stato coltivato e costruito con grande lungimiranza, che è quello della scherma, no? Cioè noi in Italia, ragazzi, ci abbiamo avuto una scuola dei schermitori ancora oggi, insomma, molto importante, sicuramente è un po' più decaduta rispetto al passato, ma cioè noi la scherma per decenni abbiamo vinto tutto, cioè nel senso comunque eravamo tra i principali protagonisti, no? Però poi fondamentalmente il calcio schiacciava tutto. Cioè, e quando si vinceva magari a qualche sport in particolare, nuovo sport, abbiamo vinto, però bisogna... E tutti facevano tutto il classico discorso, no? Che è un discorso che sicuramente avete sentito tantissime volte, che era quello, però bisognerebbe sostenere anche gli sport minori. Attenzione al termine, che è importante. Bisognerebbe sostenere anche gli sport minori, non soltanto il calcio. O il calcio dovrebbe veicolare gli sport minori. Ma innanzitutto, perché gli sport sono minori? Questa è la prima domanda. Ammazza e sosseria sti brani, c'ha ragione il poro Walter che giustamente dice ma solo musica elettronica. Velda con Get Wind, anche questa insomma nel blocco sportivo di Epidemic Sound, evidentemente sì, l'associazione sport con musica elettronica è così insomma. E ci dice poi che anche lui ha fatto i giochi della gioventù, però li ha fatti con la sua palestra alle medie, quando faceva karate, era un piccolo percorso a ostacoli nel mio caso. Sì, è così, erano dei giochi atletici a ostacoli, ma fondamentalmente non erano riferiti a nessuno sport nello specifico, però erano anche divertenti, era comunque competitivo ed era comunque il mettere alla prova, anche perché come al solito, considerando che queste cose venivano fatte anche a livello scolastico, venivano preparate, progettate in maniera tale che nessuno si sentisse escluso, diciamo, da queste potenzialità. Poi c'era ovviamente il più bravo, quello che vinceva, e via dicendo. E poi parlavamo del fatto che a parte i campioni, giustamente i vari livelli di calcio, quindi Pulcini, esordienti e via dicendo, non è che fornivano un grande supporto dal punto di vista della costruzione atletica, questo è vero, anche se dipendeva molto dalle situazioni, però diciamo che nel campo dei più piccoli c'era comunque il movimento, quindi i ragazzi comunque si muovevano, quindi era una cosa importante, e c'era più la scuola relativa al calcio in sé. Poi piano piano progredendo il bilanciamento con la parte atletica aumentava. TVA40, esatto, TVA40 era una di queste televisioni, se non quella insomma che basava tutto il suo palinsesto su queste cose, su Tavanota, di cui abbiamo già parlato diverse volte, quando abbiamo parlato di Richard Benson, e poi ne riparleremo, tanto capiterà insomma di parlarne. Una volta ci siamo sempre ripromessi di fare una puntata specifica storiografica su Richard Benson, un giorno lo faremo. Michela dice che il suo professore ha provato a insegnargli il baseball, poverino, penso sia finito in cura psichiatrica, sì ma probabilmente. E diciamo del calcio che alla fine tende a schiacciare tutto, tendeva e tende ancora a schiacciare tutto, quali erano poi le situazioni collaterali? Le situazioni collaterali erano le considerazioni collaterali. Cosa è successo poi? È successo che comunque il calcio, vuoi o non vuoi, come forza sportiva trainante, non ha mai aiutato e sostenuto il resto del movimento sportivo, quello che veniva appunto chiamato gli sport minori, che mi viene da ride, perché insomma alcuni erano molto più elevati proprio come entità sportiva, ma non ha mai sostenuto comunque il movimento sportivo in generale, però ha partorito comunque dei grandi campioni. In Italia abbiamo avuto una scuola calcistica importante, e questo nessuno lo mette in discussione, cosa che però negli ultimi anni è molto cambiata, perché l'iperprofessionalizzazione e l'industrializzazione così forzata del gioco del calcio, quindi con l'entrata nel mondo del calcio di imprenditori esteri, imprenditori extra, diciamo, al di fuori dell'ambiente calcistico, di fondi di investimento e di aziende basate sulla procura dei giocatori, hanno praticamente cambiato completamente quello che è il paradigma, e quindi uno sport che era elitario e che schiacciava tutto è finito addirittura per schiacciare se stesso, poi fondamentalmente. Perché poi chiaramente questo trend, questa estremizzazione, no, di un certo tipo di percorso non può far altro che peggiorare, e ci ritroviamo oggi, questo non è un discorso antisportivo o antieuropeista come concetto, è una questione proprio di crescita all'interno del proprio background, cioè diciamo così, perché oggi noi ci troviamo le giovanili e le primavere calcistiche piene di giocatori stranieri, che se si tratta di giocatori stranieri cresciuti in Italia, che fanno parte comunque della nostra società, del nostro tessuto sociale, è un discorso. Se le primavere vanno a comprare i giocatori all'estero, questa cosa comincia a diventare un po' un discorso, insomma, veramente poco comprensibile. Quindi in Italia fare sport significa non trovare tanto spazio e tanta cultura da quel punto di vista. L'unico sbocco che può avere una professionalizzazione importante è il calcio, perché comunque ha talmente tante categorie professionalizzate che alla fine comunque diciamo che ci puoi campare, no? Cioè, nel senso, ci arrivi a fare uno stipendio volendo, insomma, se riesci, se sei fortunato. Il calcio stesso che oggi ti chiude le porte ulteriormente, perché praticamente ovviamente viene dato spazio a qualcosa che va al di là, insomma, no? Nel senso che viene comunque dall'estero, che viene acquisito come talento sportivo, e questo chiaramente distrugge il movimento. Ed è questo, e ritorniamo al discorso di partenza, ossia che in Italia non c'è mai stato un movimento sportivo vero e proprio, non c'è ancora oggi, e l'unico movimento vero e proprio che ci sta, ovviamente, è il movimento che stiamo distruggendo, perché anche quel movimento che ha sempre portato comunque delle risorse, ha sempre portato dei successi, ha sempre portato comunque dei ragazzi a raggiungere determinati obiettivi, oggi viene distrutto da zero anche quello. Quindi alla fine è un problema strettamente culturale in Italia, dove praticamente non ci interessa lo sport, non ce l'abbiamo come educazione. Anche tutte quelle persone che oggi navigano all'interno del mondo dello sport, tutti quei burocrati, quei politicanti che costruiscono le federazioni, le associazioni, le leghe e via dicendo, non c'hanno la cultura sportiva, c'hanno comunque la visione del posto dove emergere in qualche maniera per distinguersi e per trovare una propria posizione all'interno di un contesto, magari persone che non hanno trovato posto nella politica, ad esempio, persone che sono messe lì da fondi di investimento, da situazioni collaterali, altre persone spinte da determinate lobby per far passare la regola X piuttosto che la regola Y all'interno del mondo del calcio, soprattutto nel mondo del calcio, dove le regole sono ferree per tutti ma sono derogabili solo per 3 squadre. E qui poi una volta ce la facciamo una puntata sul come il calcio in qualità di industria rispetto ad altre industrie come quella britannica, per una questione culturale e di malafede, ovviamente ha distrutto se stessa in funzione di raggiungere determinati obiettivi che non sono mai stati raggiunti. Quindi poi è tutto un discorso abbastanza complicato che in qualche maniera poi alla fine c'ha insomma il suo perché può essere comunque rapportato, però meriterebbe poi un capitolo proprio a parte, perché c'è proprio un discorso proprio strutturale che porta il calcio ad aver cannibalizzato se stesso in funzione e in favore di poi dopo ne parliamo, no? Poi ne parleremo, insomma, magari in un'altra puntata. E invece riprendo un po' quello che ha detto Walter all'inizio, quando diceva che giustamente tu parli al passato, ma in realtà ancora è così. Sì, però oggi individualmente le persone hanno una coscienza, una consapevolezza sportiva che sicuramente non c'era allora. Quindi oggi, personalmente, per puro piacere, tanto quanto per passione sportiva, la gente tende ad applicarsi allo sport in maniera completamente diversa, e non grazie al sistema. Questo è chiaro che non è grazie al sistema, ma è grazie ovviamente al fatto che durante questi anni, grazie alla televisione, abbiamo raggiunto determinati obiettivi più o meno casualmente, portando alla luce determinati sport, ricordando che certi sport sono importanti e nei quali magari abbiamo iniziato a costruire una tradizione, e la gente quindi si avvicina a questi sport per pura passione, facendoli diventare magari una ragione di vita. Ma appunto è una costruzione dal punto di vista culturale di quello che è il rapporto con lo sport, ma non grazie al sistema. E questo è insomma è una cosa abbastanza evidente. Quindi ancora una volta noi pensiamo a quelle che riteniamo le cose serie, che so, le stronzate, e invece riteniamo meno importanti quelle cose che invece non solo farebbero bene a noi, ma ci costruirebbero un'educazione, ma soprattutto ci farebbero star bene anche fisicamente. Carnival para Abala Adua Blizer, ragazzi, anzi la Adua Blize senza R finale. E vabbè, questa è una canzoncina insomma molto sul calcio, dai, penso che sia il calcio, poi onestamente non ve lo so di. Vabbè ragazzi, comunque il discorso di fondo è questo: non abbiamo cultura, non sfruttiamo neanche le occasioni quando nascono, aspettiamo che lo sport viva di momenti così, di fulmini a ciel sereno, di grandi fiammate. Adesso probabilmente molti vorranno giocare a curling, come adesso va di moda il paddle. E insomma vabbè, e tantissime altre situazioni dove vedi oggi tutti gli ex calciatori giocano tutti a paddle, non so se ci avete mai fatto caso, tornei per tutta Roma, Bruno Conti, Giordano, tutti che giocano a paddle, no? Adesso si accaniscono insomma su questo meraviglioso gioco, che poi non è nient'altro che una variazione dello squash poi fondamentalmente. Però detto questo, insomma ragazzi, alla fine anche questo ci dimostra quanto siamo un paese del cazzo, no? su queste cose, quando in realtà abbiamo dei talenti, perché se fosse soltanto un fattore numerico, quindi praticamente una cosa legata all'entità numerica della popolazione, quindi Stati Uniti 300 milioni, Italia 50 milioni, allora dice vabbè, la proporzione è ovvia, ma secondo me non è neanche quello, perché se allora questa cosa ci dovrebbe dire che loro dovrebbero vincere comunque sempre e in ogni caso su qualsiasi sport, e invece non è così, perché ci sono degli sport nei quali ovviamente si costruisce una cultura, e noi su alcuni sport l'abbiamo costruita una cultura, e quindi dato che delle eccellenze, dei talenti ci stanno, è soltanto un problema appunto strettamente politico e culturale, come sempre. Bene, detto questo ragazzi, io vi lascio insomma il resto delle vostre giornate, considerando che questa sera alle 20, come tutti martedì, mercoledì e giovedì, ci sarà Walter Sbano con le orazioni della sera, e che alle 21.30 torniamo quando eravamo futuro e vi portiamo al cinema, ma non al cinema nel senso che parliamo di cinema, dei film, delle colonne sonore, no, vi portiamo proprio fisicamente al cinema in un giorno di inverno, primavera, inverno barra primavera del 1981, e con questo accompagnarvi dentro il cinema e raccontarvi che cos'era andare al cinema, cosa succedeva dentro il cinema, com'erano i cinema, faremo ovviamente un grosso raffronto con quelli che sono i cinema attuali, quindi vedere un po' tutto quello che è sostanzialmente cambiato da un punto di vista pratico, tecnico, tecnologico e anche educativo, che insomma anche lì, ragazzi, le cose ce le stanno da dire. Detto questo, e vi ricordo invece che domani mattina ritorna ovviamente il nostro Leo Varghion con il mattino all'oro in podcast, e per il resto insomma ci vediamo insomma, ragazzi, con calma e per favore. Vedo Walter mi ha scritto diverse cose, però le leggo con calma perché in questo momento sto chiudendo. Bene. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti e ricordatevi sempre buongiorno un cazzo.